Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il settembre del 1860. Una buona giornata, ancora una puntata speciale del Gazzettino del Risorgimento e parliamo di quello che possiamo considerare il completamento della conquista da parte del Piemonte e del Regno delle Due Sicilie, perché Garibaldi è arrivato nella capitale. L'ingresso di Garibaldi a Napoli è stato un trionfo. Il 7 settembre la città era stata quasi evacuata dalle forze borboniche. Il grosso dell'esercito, forte ancora di 50.000 uomini, è in grado, in teoria, di schiacciare il nemico. Ha lasciato la capitale con il re Francesco, che è partito per la fortezza di Gaeta, che ha visto la regina Maria Sofia, che è sorella di Sissi d'Austria ed è una donna di polso. Dice che vestiva un abito quasi povero e un cappello di paglia. Le toilette più belle le ha lasciate tutte a Palazzo Reale, come se dovesse tornare a momenti. E invece, due giorni dopo, a Napoli è giunto il dittatore dell'Italia meridionale, come lui si è proclamato. Garibaldi è arrivato in treno, accolto da una folla enorme, festeggiatissimo. La guarnigione della città si è arresa subito. Intanto però altre notizie sono arrivate dal nord. Cavour ha deciso di agire e ha ottenuto da Napoleone III di invadere Umbria e Marche, che fanno parte dello Stato Pontificio, per fermare proprio Garibaldi. Poi ha presentato al re le dimissioni, mossa tattica. Il re le ha respinte, così quando Garibaldi gli ha chiesto la testa di Cavour, Vittorio Emanuele ha dovuto rifiutare e ha anche scritto al generale che la sua intenzione di conquistare Roma è inopportuna, almeno adesso. I generali Cialdini e Fanti hanno agito. Il 16 settembre hanno sconfitto i pontifici a Castelfidardo, proclamando contemporaneamente l'intangibilità di Roma e del Lazio. I pontifici sono assediati ad Ancona e stanno per cedere. Garibaldi non è per nulla contento, ma deve ancora affrontare il grosso dei borbonici. E mentre scriviamo, sul Volturno sta per cominciare lo scontro decisivo. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ed è tutta per questa edizione del Gazzettino. Potete scaricare il nostro foglio quotidiano sulla nostra pagina internet www.radio24.it. Visitate la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento là oppure gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.